Ecco il campo straniero. Come vedi, anche noi siamo ospitali come voi altri a casa vostra. E come hai mangiato e bevuto con noi, così la nostra terra si berrà il tuo sangue. Si è sempre fatto. Cutti ludissi, catera lassari, meggiu la morti, cannochistu duluri. Cutti ludissi, catera lassari, meggiu la morti, cannochistu duluri. Ai ai ai ai. Moru moru Ti ricordo, Alfredo, moru moru, quando tornavi dal lavoro ed chiaduro eri me stanco cori, e volevi l'amore solo un letto e una vissi tu. doccia. Ti Ai ricordo, ai Alfredo, le parole ci ai ai, vediamo tra 8 ore. Ti ricordo? Ti ricordo, Ciao Alfredo, del quando me cantavi ed cori, eri l'amore felice. mi Ti ricordo, sì Alfredo, che tu. studiare è importante. Ai Ti ai ricordo, Alfredo. Ti ai ai, ricordo, Alfredo, quando stavo sulle tue spalle moru moru moru, avevo sempre paura di ciao del me cadere. Ti ricordo, cori, Alfredo, l'amore d'estate, quando ti vissi lanciavi dagli tu. scogli più alti. Ai Ti ricordo, Alfredo, ai ai ai, quando tornavi a casa e moru fumavi la tua moru pipa. Ti ricordo, moru, Alfredo, che a me ciao puoi del dire me tutto. Ti ricordo, cori, Alfredo, l'amore quando sul campo di vissi calcio tu. era l'estate, Ai era ai l'inverno, era tutta ai ai, la vita. Ti ricordo, Alfredo, quando non eri moru moru moru, ancora nato, ciao stavi del nella me mia pancia, io cori, immaginavo l'amore come vissi saresti stato. tu. Ti ricordo, Alfredo, che il letto non si rifà da Ai ai ai ai, solo. Ti moru ricordo, moru Alfredo, quando moru, suonavi la chitarra, io ciao del cantavo. me Ti cori, ricordo, l'amore Alfredo, che il vissi sale nel barattolo tu. rosso. Ai Ti ricordo, Alfredo, ai ai ai, che ne hai viste di moru peggio. Ti ricordo, Alfredo, che a volte il coraggio è dire ciao di del no. me Ti ricordo, Alfredo, che cori, non puoi l'amore arrabbiarti vissi senza un motivo tu. valido. Ti Ai ricordo, ai Alfredo, ai che se ai, muori io ti moru ammazzo. Ti moru ricordo, Alfredo, che moru moru, anche in te c'è ciao del qualcosa me che gode e che cori, sanguina. l'amore Ti ricordo, vissi Alfredo, e tutti i tu. Natali che non Ai vedrai. ai Ti ricordo, ai ai, Alfredo, che la morte è un moru lusso che non puoi moru moru permetterti. moru, Ti ricordo, Alfredo, che è ciao più del me difficile per chi cori, rimane. Ti l'amore ricordo, vissi Alfredo, che oggi è il tuo tu. compleanno, Ai torna ai presto ai dal lavoro. ti Ti ricordo, ricordo, Alfredo, Alfredo, che sorridere moru moru, è vivere ciao come del me un'onda o una cori, foglia. l'amore Ti ricordo, Alfredo, e già non vissi ti tu. ricordo, Alfredo, e già Ai non ti ai ricordo. ai ai, Ti ricordo, Alfredo, e già non ti moru ricordo moru più, moru, Alfredo. Ciao tu del ciao me del me cori, cori, l'amore mio sei tu. Alfredo, Ai ai ai ai, Alfredo, moru moru moru, Alfredo, Alfredo, e ciao tu del me cori, Alfredo, l'amore mio sei tu. Alfredo, Ai ai ai ai, Alfredo, Alfredo, Alfredo, Alfredo, ciao tu del me cori, l'amore mio sei tu. Alfredo, Alfredo, Alfredo, a che ore sono? Si può capire. Sì. Metti il caffè sul fuoco. Ho capito. Dobbiamo andare a cena da lei. Vado a svegliare i bambini. Oh, no. Vado in bagno. Sei tu il più forte. E i bambini? Sei tu il più forte. Ma come hai fatto a cadere la merda? Sei tu il più forte. Muovetevi, è pronta la colazione. Sei tu il più forte. Sei tu il più forte. Ho fatto la lista della spesa. Sì. Ricordati di andare a comprare tutto, anche il latte. Se no domani non c'è prima bambini. Tu. Ho fatto un brutto sogno. Le camicie le ho stirate, va stanno bene sul letto. Allora, stasera guarda che sento puzza di ghiacciolo. Non devi cucinare così pesante. Il caffè! Io so che ora comincio a fare. Perché so sto che perdendo il fisico, però capito? Fai presto, torno altrimenti da me mi stasera. Difendo. Anche se ancora mi difendo. Prepara tu qualcosa ancora per cena, difendo, non lo so. Io. Quello che vuoi, scongela qualcosa. Dai, no, andiamo. Io sto facendo no, tardi. Non l'ho preso io. Accompagna no tu i bambini a scuola. No, ho lasciato una lista su. Prendi la pasta. No, si va con la cravatta. No, io vado a piedi, devo andare tardi. Metti la cravatta. I bambini ci vediamo più tardi. Mi raccomando. Va bene, ora me ne vado. Dall'amministratore, poi dall'idraulico. Devi dire all'idraulico che il rubinetto del bagno ciao perde. E devi telefonarmi, sì, per forza, perché sennò arriva acqua a quello di giù. E io non voglio pagare quello di giù, capito? Anche perché mi sta sulle scatole, tra l'altro. E io che c'entro? Che vuoi da me? Che c'entro io? No, no, anche stamattina non puoi iniziare così. Ti prego, non farmi iniziare male la giornata. Ti prego, almeno oggi. Almeno oggi. Oggi devo fare il turno lungo. Almeno oggi. Ma perché? Perché? Non è colpa mia! Non è colpa mia se tu sei depressa! Io che colpa ce l'ho? Tu non trovi lavoro, beh? Beh, colpa mia! Non devi farmi arrivare al lavoro così, in queste condizioni, perché io faccio un lavoro difficile e vorrei fartelo capire una volta per tutte. Io quando entro lì dentro rischio, hai capito? Rischio. Che vuoi che torni un giorno a casa senza un braccio? Vorrei vedere te a casa con me senza un braccio. Questa casa la porto avanti io, questa casa l'ho comprata io, con i miei soldi, con il mio lavoro e campo te. Io ti ho preso che tu non eri niente, niente. E ho tirato sui bambini io con queste braccia, hai capito? E questa sera, quando torno, ne parliamo una volta per tutte. E non piangere! Non piangere! Non piangere! Io dovrei piangere, non tu! Non piangere! Ne parliamo dopo. Ciao! Se mentre lavoro vedo queste smancerie, potresti evitare? Ci credo che tua moglie non ti sopporta, ma Guarda che mia moglie non mi sopporta per causa sua, non per causa mia. Perché? Perché è depressa. Dovresti aiutarla. Io la aiuto, faccio tutto a casa, faccio tutto io. Di giorno sono un operaio e la sera faccio lo squattero. Non so più nemmeno se sono un uomo o una donna. Alfred, stai attento, pensa al lavoro, se no fai la mia fine. Certo che sto pensando al lavoro, non ti preoccupare. Ti piacerebbe fare la mia fine, eh? Guarda le mie mani, guardale. Io quando le guardo mi ricordano sempre quelle di mio padre. Oh, poverino, avresti urgente bisogno di una manicure. Non sputtere. Mio padre, quando tornava al lavoro, c'aveva sempre le mani piene di sangue. Lui lavorava in un'autofficina, stava sempre a contatto con le vernici, i solventi. E allora mia madre gliele fasciava e lui passava tutta la notte con queste bende alle mani, sembrava una mummia. E me lo ripeteva sempre. Non fare la mia fine, non fare la mia fine, non fare la mia fine. E se ti vedessi adesso? Sarebbe orgoglioso di me, perché fra due mesi divento caporeparto. Sì, e diventi come tutti gli altri. E vado fuori da questo buco. Sì, per loro siamo solo un numero, un codice fiscale. Ma lo sai perché è ottimista? Perché è nuovo. Nuovo! Oh. Guarda lei! Anche lei era ottimista all'inizio. Di un po' che dicevi. Dicevo, sto qui tre mesi, mi pago il viaggio per la Spagna e poi me ne vado. E invece sta ancora qui. E la Spagna non l'ha mai vista. Però mi hanno detto che è bella. Io sono stanca, non vedo l'ora che finisca il turno. Tu non capisci niente, io non vedo l'ora che inizi. Tu sei pazzo. No, no, no. Vedi, questo lavoro è una manna dal cielo. Entri qui dentro, spegni il cervello e non ci pensi più. Non pensi più a niente, capito? Guarda che qui, anche se sudo, io non mi stanco. Io sono stanco di tutto quello che c'è fuori. Sono stanco delle rate della macchina, sono stanco di mia moglie, sono stanco dei miei figli, sono stanco pure dei miei genitori, che sono diventati altri due figli da accudire. Sono stanco delle bollette, che arrivano sempre più alte. Sono stanco di vedere la mia faccia allo specchio. Sono stanco di dover sorridere ogni mattina, anche se proprio non ne ho voglia. Sono stanco del fatto di dover lavorare per creare dei sogni che ormai non ho più. E a volte guardo mio padre e vorrei essere vecchio. Vorrei essere vecchio come mio nonno, che tutto quello che c'era da dire l'ha già detto, tutto quello che c'era da fare l'ha già fatto. Io vorrei essere vecchio come lui e guardare le cose accadere senza l'ansia di doverle far accadere. Tutto è iniziato da mio nonno. Mio padre invece faceva il muratore, tabacco e sudore. Quando tornava a casa io me ne accorgevo prima. Gli saltavo al collo e dicevo: papà, cos'hai fatto oggi? Oggi ho costruito il salotto di casa tua e poi il terrazzo, la cucina, la camera da letto, e io scendevo nei dettagli e lui mi accontentava. Poi a un certo punto non ce la faceva più, mi metteva la mano in faccia e mi faceva tacere. Erano belle le mani di mio padre, ruvide come le pietre che lavorava, mentre tutto il resto del corpo era musica. Quando c'era la festa del santo noi andavamo in piazza insieme di fronte alla cassa armonica, sentivamo la musica. E io sentivo la musica scorrere attraverso il corpo di mio padre e arrivare fino a me. Me la cantava sempre la Traviata. Mi chiamo Alfredo per questo. E mi addormentavo sempre nel momento più bello. Lo vedi? Qui là e ti sorrido. Tra quei fiori, presso a te sempre, sempre, sempre, presso a te. Ti sei fatto male? Oh, ti sei fatto male? No. No. Hai avuto paura? Io sì, un poco. Devi abituarti. Succede spesso qui. Vorrei dire non guardare al pericolo. Non senti questo freddo che ci sferza? Che inasprisce. Che tempra la nostra volontà. Non senti cosa ci dice? Non lo senti come sarebbe spogliarsi un giorno della rabbia e dell'amarezza? E vederti attorno un paese che somiglia a quello che abbiamo sperato. Ma questo paese non vive nella parola solitaria. Questo paese non vive del ringhio e della rabbia. Questo paese si raggiunge con il peso della strada lunga. Con la fatica di ogni passo che resiste. Con la sfida di ogni passo arrischiato. Con l'orgoglio della fatica e del rischio. Col desiderio di muovere ancora un passo. Non ci sono lacci alle mie mani. Non ci sono brigli alle mie tempie. Non sto aspettando qualcuno che venga a liberarmi. Nessun morso trattiene il mio muso. Sono già sciolto. Non voglio dormire. Non voglio sottrarmi alla fatica. Voglio salire lassù. Dove è possibile vedere, capire, decidere. Voglio costruire un altro destino con le mie mani e la mia fatica. Ma questo destino di cui tanto si parla, questa giustizia di cui tutti vi riempite la bocca, ma poi non sapete fare altro che urlare, strepitare e lamentarvi, come se fosse dai lamenti che nasce l'alternativa. Anche la sofferenza è inutile se non partorisce un'intenzione. Anche il ricordo non serve a niente se alimenta il rancore piuttosto che la speranza. Voi pensate che a furia di lamentarvi e versare lacrime come preghiere, la giustizia che desiderate discenderà su di voi come una grazia dal cielo? Dal cielo non scenderà nulla. Lo so. È tutto il tempo sprecato ad aspettare vi avrà solo tolto la forza di desiderare ancora. Lo so. So che oggi potrei sedermi qui e aspettare, perché il mondo potrebbe essere un posto migliore. Ma decido di pensare a me stesso come un uomo libero. Se un uomo combatte e tien duro, può piangere e ridere. E se ti inchiodano, questa è la vittoria che il destino ti consente. Alfredo, dove vai? Che fai? Alfredo! Smettila! Tienimi più tempo! Scendi! È bellissimo! Sali! 76 C12 F839 T assurdo! Via 36 2 R assurdo! E tu? Come te lo sei fatto? Io mi sono schiacciata l'ombraccio dentro una pressa! Bravissima! E tu? C'è io! Sono caduta da un'impalcatura! Ma con tutta l'impalcatura? Sì, 5 metri di altezza! Professionista! Che volo! Investito dal camion, mi sono fatto 6 metri sull'asfalto. E invece a me è andata bellissimo. Una scheggia in un occhio. Caspita, che mira! Io avevo le cuffie alle orecchie, non ho sentito il muletto arrivare e mi ha schiacciato tutte e due le braccia. Io ho perso la mano con una motosega. Anch'io ho perso tutte e due le braccia, però stavo fumando una sigaretta e lo sapevo che il fumo faceva male, ma non immaginavo così tanto. La cosa che mi dispiace di più è che adesso salire le scale è diventata un'impresa. La cosa che mi dispiace di più è che avevo un sinistro da paura. La cosa che mi dispiace di più è il lunedì sera in latinoamericano. La cosa che mi dispiace di più è che non riescono a guardarmi negli occhi. La cosa che mi dispiace di più è che ora non posso neanche più applaudire a teatro. La cosa che mi dispiace di più è che quando compro delle scarpe una rimane sempre nuova. La cosa che mi dispiace di più è che mio nipote ha paura di me. La cosa che mi dispiace di più è che adesso nessuno mi tratta male. La cosa che mi dispiace di più è che adesso mi hanno licenziato. La cosa che mi dispiace di più è che quello accanto a me è morto. La cosa che mi dispiace di più è che a me dispiace molto, molto, molto più di te. La cosa che mi dispiace di più è che io ero brava nel mio lavoro. La cosa che mi dispiace di più è che io non ce l'ho più il mio lavoro. La cosa che mi dispiace di più è che non posso più neanche mandarli a fanculo. E mi hanno chiesto se li perdono. No. No. Questo no. Questo no. No. E allora? Noi vili. Chiamavamo la sera bisbigliante. Le case. I sentieri sul fiume. Le luci rosse e sporche di quei luoghi. Il dolore addolcito e taciuto. Noi strappammo le mani dalla viva catena. E tacemmo. Ma il cuore ci sussultò di sangue. E non fu più dolcezza. Non fu più abbandonarsi al sentiero sul fiume. Non più servi. Sapemmo di essere soli. E vivi. Io Michela Vietri, oggi mi sento immortale. 28 anni, buona salute, dove sono questi morti? Dove sono questi cadaveri? Non fatemi li vedere mentre mangio o cambio canale, io non ho il tempo di pensare alla morte. Ho la scuola, l'università, gli amici, il lavoro, l'affitto, le relazioni sociali, io non ne ho le energie. Dovrei forse deprimermi perché Dio è morto e non c'è un al di là che ci farà giustizia. Quanto tempo passi al lavoro sperando di finire presto e ricominciare a vivere? Mentre vai a lavoro tu vivi. Mentre ti togli di dosso la fatica tu vivi, io non ho capito. Mi impegno. Per un periodo sono come gli altri, mi inserisco nella società, ma poi mi sorgono delle domande. Tu riesci a dormire la notte perché io conosco il sonno del vino e quello pesante dormito al fianco di un altro, ma tutto questo non mi giova più. Sono sempre pronta a balzare e ho questi occhi di chi fissa il buio. Se mi avessero spiegato com'era, io non vorrei a tutti i costi cambiare canale, perché quando succede a te tu non puoi più cambiare canale. Il nostro falò non lo vedrà nessuno, non mi importa, noi dobbiamo farlo lo stesso. Un ponteggio che cade non è fatalità. Un estintore vuoto non è fatalità. Una malattia professionale non è fatalità, perché la fatalità non esiste. Fai il turno di notte? Sì. Lo facciamo insieme? Sì, va bene. Ti posso fare una domanda? È una domanda seria? Sì, ti giuro, è seria. Va bene. Senti, ma tu sei felice? È proprio seria questa domanda? Sì, è seria. Ma l'hai capita? Sì che l'ho capita. E allora? Non lo so. Se penso alle cose passate mi pare di esserlo stato, ma nei giorni è diverso. Provo un fastidio nelle cose e nei lavori come se fossi ubriaco e allora smetto e vengo qua giù. A lavorare? Sì, perché nei suoni e nei rumori che stanno qui dentro non c'è il fastidio delle cose di tutti i giorni. Se tu parli con la gente ti dirà che la vita è brutta. Secondo me dovrebbero venire qui sotto per apprezzarla veramente. Così ci vengono a dare una mano? Magari. E avere di fronte ogni giorno le stesse fatiche e le stesse mancanze. Ma non è il dolore che mi spaventa, e nemmeno la morte. È lo sforzo interminabile di rimanere vivi, ora dopo ora. È la notizia del male degli altri. Questo è il vivere che ti taglia le gambe. Come parli bene, Alfred. Sembri un poeta. Io sono un poeta. Sono il poeta operaio, eh? Ti piace? Molto. E anzi, ti dico una cosa. Io, un giorno di questi, sarò ricco. Sì, vabbè. Tu hai di fronte a te un uomo che sarà ricco. Sì, sì. E te ne accorgerai, perché appena diventerò ricco, mi comprerò una città e gli darò il mio nome, Alfredonia. Vabbè, allora appena divento ricco io mi compro la nazione intera. E lo sai come la chiamo? Come Alfredonia 2, in onore a te. Ti piace? A sfregio? Sì. E allora lo sai che faccio io? Io mi compro uno stato intero accanto al tuo e ti bombardo. Ma non potrai farlo, lo sai perché? Perché? Perché io mi comprerò il pianeta intero. E quindi il tuo lo disintegrerò con tutte le mie forze armate. Allora io chiamerò i marziani e gli dirò di attaccarti e di distruggerti e di polverizzare tutto ciò che appartiene a te. Ma non potrei farlo, lo sai perché? Perché io sarò così tanto ricco che mi comprerò tutti i tuoi marziani e passeranno dalla mia parte. Allora io mi comprerò un razzo incredibile e lo attaccherò dietro la luna e te la spedirò contro. Ma non potrei farlo perché io mi sarò comprato uno scudo spaziale che respingerà il tuo razzo e te lo restituirà a te. Ti arriverà direttamente in petto, va bene? Allora lo sai che faccio io? Io mi compro tutte le galassie e le faccio iniziare a girare vorticosamente attorno a te finché non ti risucchieranno dentro un buco nero. E io invece mi compro una fabbrica, va bene? Mi basta solo una fabbrica. E lo sai perché mi compro quella fabbrica? Che ci fai con una fabbrica? Perché in quella fabbrica ci metto a lavorare te. Eh? Ah, e ti ci metto a lavorare a tempo indeterminato. Perché? Perché tu dici che sei il più bravo. Bravo! E allora dimostramelo. Lo sai che sono il più bravo. Sì, sei il più bravo, dimostramelo. Sono il più bravo. Ti metto a tempo, a un contratto a tempo indeterminato. Sì. Ma così indeterminato che dovrai sempre lavorare, solo e soltanto per me. Solo per il mio profitto, mi raccomando, solo per il mio profitto. Questi operai sono proprio divertenti. Noi sappiamo le cose e loro le fanno. Senza di loro mi chiedo che cosa sarebbero i giorni. Che cosa saremmo noi. padroni ci chiamano con le loro vocette e ci danno dei nomi. Hanno un modo di nominare se stessi, noi altri e le cose, che arricchisce la vita dappertutto. E dove spendono fatica e parole, nasce un ritmo, un senso, un riposo. E non dovremmo aiutarli di più? No. Compensarli in qualche modo? No. Stare accanto a loro nella breve giornata che godono? No. Non sarebbero uomini se non fossero tristi. Tutta la loro ricchezza è la morte, che li costringe a industriarsi, a ricordare, a prevedere. A me paiono balordi. O forse no. O forse no. Ma visto che sono mortali, danno un senso alla vita uccidendosi. Tutte le loro storie le devono vivere e morire, giorno per giorno, sempre di più. Di più. Giorno dopo giorno, non sempre, sempre di più. Non incrociare le braccia. Devi essere più avanti, produttivo. Di più, forza. Sei arrivato. Non sei avanti, più avanti, di più, dai. Più, di più. Più produttivo, forza. Di più, più produttivo, dai. Dai, ancora, di più. Forza, di più. Dai, di più, ancora di più. Forza, di più, non fermare. Più forza, più forza. Forza, di più. Di più, forza, basta, vai, vai. Pausa. In piedi. Seduto. In piedi. Seduto. In piedi, seduto. In piedi. Seduto. In piedi. Ma dove vai? Seduto. Dove corri? In piedi. Guarda che qua davanti c'hai un giovanotto. E che giovanotto hai davanti? Seduto. Guardalo bene. Seduto. Guarda che dove vado io segno il passo per tutti, capito? In piedi. Seduto. E questa volta vado al traguardo prima di te. In piedi. E ti aspetto. In piedi. Seduto. Senza fiori stavolta. In piedi. Con le braccia conserte. In piedi. Come nei giorni di festa. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. In piedi. Sposami. E io ti donerò lo spreco. Adesso mi vedi sporco con le brache sudice. Il sudore è la mia ricchezza. Io ti farò fare il bagno nel mio sudore. Te lo giuro, non morirò mai prima di te. Le vedi queste braccia? Saranno la tua casa e la tua tomba. Sposami. E noi lasceremo agli altri la paura delle vetrine e quel senso di impotenza che accompagna il desiderio. E l'economia domestica sarà un ricordo lontano, da scolari. Sposami, e quando la noia avrà riempito le nostre giornate, allora giocheremo a fare i benefattori e fingeremo di ricordare il mondo che ci ha partoriti. Sposami, e io ti donerò la dignità che a quelli come me e come te non spetta. Ti sposo. Prendi me. Ti sposo. Domenica giornata di scirocco, fora non si può stare. Avremmo potuto fare lo sforzo di desiderare di più. Fare un po' che frisco. Chi poteva avere la forza di desiderare oltre il giorno? Quando posate le membra, l'unica forza è quella del respiro nel sonno. E il pensiero è confuso tra l'oggi e il giorno passato. Uguali da sempre. Solo il giorno di festa resiste bianco e fresco. Avremmo potuto fare lo sforzo di desiderare di più. Tu non comprendi l'economia dei gesti di chi saluta solo se visto. Chi è stanco si adopra solo se il fine c'è. Chi pianterebbe un albero tra i sassi. La rondine che non si lancia non conosce il lume. E il senso di colpa di chi sa di aver perso tempo. E vive il giorno aspettando la notte il giorno. E senza forze spera che passi presto il tempo dell'agire. Per non soffrire, per non avere scelta. L'orgoglio di chi costruisce va via da un luogo trasformato dalle proprie mani. Ogni giorno diverso è sempre più completo. E torna alle case con le mani tinte di lavoro. E beve il vino. E mangia sereno. Noi sempre combattemmo. Chi si risolve all'urto ha gustato la morte e la porta nel sangue. Come buoni nemici che non c'erano più, noi abbiamo una stessa voce, una stessa pena. E viviamo affrontate sotto povero cielo. Tra noi non insidie, non inutili cose. Combatteremo ancora, combatteremo sempre. Fumo fatte per questo. Se tu, Dio, cedi all'urto, segui una lunga notte che non è pace o trego. E non è morte vera, lui non c'è più. Non si ama chi è morto. Ah. poco rivola, s'intendo sbrizzi d'acqua di fontana, non posso riposare, non posso riposare. Giovedì mattina, venerdì mattina e pomeriggio, sabato tutto il giorno, domenica straordinario, lunedì spezzato, martedì mezzogiornata, mercoledì tutto il giorno. Portami al mare. Non possiamo andare al giovedì. Mare, devo andare a lavorare. Giovedì tutto il giorno. Ti accompagno in fabbrica. Venerdì spezzato, no, non puoi accompagnarmi. Martedì tutto il giorno. Dimmi che mi ami. Portami un regalo quando torni. Le dico che ti sono mancata. Ti porterò quello che trovi, sì, mi sembra. Telefonami nella lunedì. Pausa. Sabato tutto il giorno, domenica mattina e pomeriggio. Domani usciamo. Andremo con i mezzi d'ora in poi. Torna presto la sera, tu sai che non riesco a dormire se non torni. Ti ci dovrai abituare. Lunedì spezzato, martedì mezzogiornata, mercoledì tutto il giorno. Telefonami nella pausa. Non posso chiamarti. Sto lavorando, non posso chiamarti. Dimmi che mi vuoi bene. Sì, mi sei mancata. Lunedì. Ti voglio bene. Sei sempre stanco, non spezzato. Mi parli con te. Martedì mezzogiorno. Non mi posso parlarti, ti direi cose brutte. Torna presto stasera. Martedì mezzogiorno. Andiamo a cena. È il tuo compleanno. Dobbiamo festeggiare. No, adesso. Che ti piace tanto. Verrà l'anno prossimo, no, il mio compleanno. No, no, questa sera. Verrà l'anno prossimo. Festeggeremo un'altra volta. Non te ne andare. Mi stanno già puntando al lavoro. Resta qui. Non te ne andare. Guarda in camera. 10. Sorridete. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oggi è il mio 31esimo compleanno. Oggi, come ogni giorno, io penso a te. A tutte le volte in cui ti ho chiesto aiuto. E tu mi hai risposto con i numeri. E io stentavo a riconoscerti nei tuoi impersonali. Bisogna, è necessario, si deve. Ma tu credi che si muoia così, senza saperlo? Oggi, come ogni giorno, io potrei tornare a casa e bere il vino e mangiare sereno, con le mani tinte di lavoro. Oggi, come ogni giorno, io potrei salvarmi. Le mie mani potrebbero trovare gli appigli più sicuri, le mie spalle potrebbero muoversi per ritrovare l'equilibrio. Oggi, come ogni giorno, io potrei vivere. Ma proprio non ce la faccio. È per fortuna che la chiameranno una disgrazia. Sono costernato. Cose del genere in un paese civile non dovrebbero accadere. Mi dispiace davvero tanto. Era il migliore. Sentite condoglianza. Sentiremo per lui una forte mancanza. Era il migliore. Ma niente paura, perché qui davanti a voi c'è un torero che non ha paura di niente e di nessuno. E sulla mia parola, i colpevoli verranno puniti per questo, senza se e senza ma. Mi manca. Quando t'affacci stai sempre con la speranza che torna. I primi giorni poi non volevamo chiudere la porta a chiave. Perché ci sembrava una cosa assurda. Assurda perché mio marito ha lavorato per tanti anni. E ci è morto del suo lavoro. Dopo i primi giorni poi i figli tornano al lavoro e allora ti rendi conto di essere sola. Sola. Tante volte ti metti in posizione fetale e piangi tutte le lacrime che hai. Tu pensi sempre che finiscano, invece tornano sempre. Mi manca. Lo vivo in prima persona questo dolore, giorno e notte. Perché sono convinta che la morte di mio marito si poteva evitare. Quando la notte non riesco a dormire, il mio cervello gira, allora scrivo. L'ho scritta a tutti la mia indignazione. L'ho conosciuto che avevo 16 anni. Che vi posso dire? Sono stata fortunata. Prima di tutto per com'era lui. Presente. 3 figli amati e voluti. Un unico stipendio. Quando non ce la facevamo l'ho aiutato anch'io. Ho lavorato presso persone anziane. Ho pulito le scale, non è che non l'ho aiutato. Perché quando uno ha 3 figli che studiano, ve lo potete immaginare. Poi noi di abitudine non abbiamo mai chiesto niente ai genitori. E che vuoi chiedere? L'orgoglio di avercela fatta sempre insieme. Tra poco sarebbe stato il suo compleanno. E saremmo andati a vedere La Traviata. Il suo sogno. Che io avrei accontentato. Mi pento di non esserci andata prima. A me piace ricordarti che parlavi col vento e non avevi paura di cadere. Quando nella caduta c'è ancora la fierezza della tua opera e la voglia di rialzare la testa. Quando il ricordo sbiadisce salgo quassù e cerco il colore dei cieli che vedevi mentre eri al lavoro. Io li conosco, i tuoi cieli bagnati di ferro, grigliati di fili. Come tu sapevi i cieli di sabbia dei vecchi, gli occhi fissi sui campi. Io conosco il silenzio soddisfatto della tua stanchezza, come tu sapevi il loro silenzio. Da autunni indaffarati accanto al fuoco e custodisco la tua fatica. Come tu custodivi la fatica dell'inverno dei vecchi, che era come un sonno che si dimentica i semi sepolti e a sapori di freddo e d'attesa di un inizio nuovo. Ecco ancora il vento, ecco ancora il desiderio che non si lascia domare dalla paura, l'orgoglio come te di salire quassù in altezza, fuori sicurezza, dentro questo vento gelato dove diviene visibile un altro destino per l'uomo. Un'altra altezza da desiderare, pretendere, costruire. Un'altra bellezza da ostinare, volere, scavare, slanciare. Questo desiderio di farti e lasciarci un altro modo di essere uomo. Non rimane che l'erba sotto il cielo, eppure l'alito del vento dà nel ricordo più fragore di una bufera dentro il bosco. Finché morte non ci separi. Nella vita tutto crede, nei giorni crede, perfino che il suo sangue possa scorrere in vene altrui. Crede di rompere il destino con l'ebbrezza, ma il destino è cosa tua, più profonda del sangue. Al di là di ogni ebbrezza nessun dio può toccartelo. Dal momento in cui ci sarà rivelata, nessuno sceglierà la strada più semplice, il cammino del dovere fatto di ignoranza e di gioia. Tanti auguri a te. Esprimi un desiderio. Tanti auguri.